in primo piano. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchesi, sono le 7:33 minuti 54 secondi. E Radio 24, la radio che stai ascoltando. I temi principali li ho già detti poco fa, lo scontro all'interno del Popolo Libertà e quindi lo scontro tra Berlusconi e Fini, le questioni economiche legate ai timori sulla ripresa americana che fanno cadere le borse, a Milano è stato il dato peggiore, e ci sono molti reportage sulle pagine dei giornali di oggi che riguardano gli incendi in Russia, anche vicende che legano la guerra in Afghanistan, il ruolo anche naturalmente dei soldati afghani, ma anche storie di cronaca come per esempio un detenuto che fugge dal carcere, un modello di Bollate, e che scrive una lettera di scuse alla direttrice del carcere: lei so che avrà dei guai. Queste sono tante storie. Cominciamo dalla politica, perché di politica è piena la rassegna stampa e quindi i giornali. Finiani, la mossa di Berlusconi, titola il Corriere della Sera. PDL Fini, la tregua di Berlusconi. La Padania, Bossi, nessun governo tecnico. Il giornale scaricato da tutti, Fini al tramonto. Il Fatto Quotidiano, avversari spiati, Berlusconi deve rispondere. La Stampa, Berlusconi Fini, prove di tregua, Berlusconi spirito unitario, voto, Il Messaggero, Berlusconi unità o scelte dolorose, Il Futuro e Libertà bene, ma basta attacchi a Fini, dice Il Sole 24 Ore. Partiamo dall'analisi di Piero Ostellino sul Corriere della Sera. Ci ricorda che quando Fini aveva detto che un uomo politico, qualora sia indagato dalla magistratura, dovrebbe dimettersi, molti nel Popolo della Libertà l'avevano presa male, poiché nel PDL non mancano gli inquisiti, primo tra tutti il leader Massimo, dice Ostellino, ne avevano concluso che Fini tradiva i suoi, faceva il gioco dell'opposizione, un'opinione legittima, ancorché di parte, ma ora che Fini è inciampato in una questione immobiliare sulla quale i magistrati hanno aperto un fascicolo contro ignoti, quegli stessi ne chiedono le dimissioni da Presidente della Camera, come se dipendessero da loro e non da lui. Una richiesta tanto illegittima quanto interessata sarebbe un caso di doppiezza se non rivelasse la vocazione nazionale a ridurre le questioni di principio a casi personali. Piero Ostellino, il suo editoriale, prima pagina del Corriere della Sera. E vediamo di capire che cosa sta succedendo. Repubblica abbastanza informata con Carmelo Lopapa, e ci racconta di questo personaggio che è Niccolò Ghedini, che in qualche modo si è sta lavorando per una sorta di trattativa segreta tra PDL e Finiani. Scrive Repubblica che per comprendere cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore bisogna seguire le tracce di Ghedini. Ben più che consigliere giuridico, ambasciatore e stratega, in questa come in altre partite delicate gestite dal suo capo. Ebbene, proprio nella strategia qualcosa, scrive Repubblica, qualcosa forse sta per cambiare, perché di fronte all'escalation contro Fini le cose non sono andate come dovevano. Deputati di Future Libertà, Fare Futuro, Generazione Italia, Il Secolo, insomma la batteria più vicina al Presidente della Camera, è partita una contraerea inattesa. Soprattutto non a caso dai due deputati ex AN più legati all'inquilino di Montecitorio, giusto per lasciare intendere che non parlavano per conto proprio. E allora prima il conflitto di interessi, poi i servizi segreti, poi la natura reale dei rapporti di questi anni con il leader Gheddafi e con il premier russo Putin. Ma è stato quando ieri mattina Ghedini ha contattato al telefono Bocchino che il quartiere generale Berlusconi hanno iniziato a vacillare. Così non possiamo andare avanti, se continuate su questa strada qui finisce che salta tutto per aria, ha esordito rivolgendosi al capogruppo. Cosa vi aspettavate? Che potevate attaccare solo voi? Che saremmo rimasti inerti solo a subire le vostre allusioni sulla casa Monte Carlo, le vostre richieste di dimissioni? Sappiate che questo è solo l'inizio, caro Nicolò, aspettatevi di tutto. E il seguito della telefonata sembra abbia ammutolito per qualche istante l'avvocato. Si arriva dunque, secondo la ricostruzione di Repubblica, a queste dichiarazioni di Berlusconi di ieri in tarda serata: ritrovare l'unità oppure dovrò fare scelte dolorose. Ed è quello che poi Berlusconi effettivamente ha detto in serata. E Bossi, attraverso la Padania che sta ad Alassio, nel mare ad Alassio, in canottiera, ci racconta che secondo lui non si può andare contro la volontà della gente. Meglio andare al voto che restare impantanati in questa palude, perché se un governo deve tirare a campare anziché fare le riforme, allora meglio le elezioni. Il messaggio di Bossi, secondo la Padania, è chiarissimo: alternative alle urne non sembrano più esserci. La sinistra, Fini e tutti gli altri hanno paura del voto, per questo spera in un governo tecnico per prendere tempo, per cambiare le leggi che non vogliono, a partire da quella sull'immigrazione fino alla legge elettorale. Non è un caso, scrive la Padania, che il leader leghista abbia bocciato fin da subito l'ipotesi di un esecutivo tecnico. Non sono una buona soluzione per le democrazie. Il popolo torni alle urne. Bossi in canottiera da Alassio con i suoi amici che appunto gli stanno accanto. Intanto il giornale va avanti con la sua campagna per mandare a casa Fini. Mandiamolo via, firmano anche Lavanoni e Squitieri, ci dice Sallustri. Sallustri sul giornale scrive che Fini ha il dovere della chiarezza, lo ha scritto ieri l'ultimo dei moicani Finiani, cioè il direttore di Repubblica, dando di fatto l'ultimatum al presidente della Camera: o parla e racconta tutto, ma proprio tutto, oppure è un politico finito. Il quotidiano faro della sinistra mastica amaro. Su Fini aveva puntato la sua campagna moralista per disarcionare Berlusconi. Per l'ennesima volta gli sta andando buca, è quello che scrive Sallustri sul giornale. Intanto il Fatto Quotidiano prosegue anche lui sulla strada, diciamo, della quello che appunto avevamo già anticipato ieri, che stava proprio sulle pagine principali del Fatto Quotidiano, cioè di parlare di rivelazioni sui servizi deviati, sul fatto che, secondo il Fatto Quotidiano e secondo Briguglio, il Finiano Briguglio, i Finiani sarebbero spiati dai servizi. Peter Gomez, in prima pagina sul Fatto Quotidiano, scrive che c'è un motivo preciso per cui la denuncia del deputato di centrodestra Briguglio sullo spionaggio organizzato da spezzoni dei servizi segreti ai danni di parlamentari non graditi va presa sul serio. Ed è un motivo talmente documentato e circostanziato che dovrebbe spingere al più presto il COPASIR, cioè il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica presieduto da Massimo D'Alema, a convocare il Premier per chiedergli in sede istituzionale chiarimenti e spiegazioni. Questo è quello che scrive Gomez in prima pagina sul Fatto. Intanto l'Unità ribalta la frittata e mette in prima pagina una foto di Berlusconi di spalle: mandiamolo a casa. E in tutto questo qualcuno si può chiedere: ma l'opposizione che sta facendo? L'opposizione, al momento, il segretario del PD chiama all'unità tutte le opposizioni, sì, di IDV, cioè l'Italia dei Valori, Verdi, Rifondazioni, con un'apertura, ci rivela l'unità anche tra i Finiani. Su cosa, su come e su dove e soprattutto su quando non vi è al momento alcuna notizia dall'opposizione. L'ultima storia di politica la prendo dal Messaggero, perché Fabrizio Rizzi ci racconta che in realtà il Cavaliere è allarmato dai sondaggi e quindi ha meno fretta di andare alle urne. I sondaggi, che confermano un forte trend in salita della Lega, consigliano a Silvio Berlusconi una tecnica attendista e misurata. Se si aprissero le urne domani, scrive il Messaggero, il Caroccio metterebbe a segno una vittoria storica, probabilmente il sorpasso sul PDL al nord. Il Premier ne tiene conto, riflette, forse non è il caso di ricorrere alle urne adesso, ed esce allo scoperto con un appello ai senatori moderati del neogruppo Finiano. Questo è quello che scrive il Messaggero. Non abbiamo, i sondaggi naturalmente sono tanti, sono molti, li abbiamo visti anche noi. È certo che la Lega potrebbe avere un consenso ancora maggiore di quello che già ha avuto, sfondare anche ancora di più di dove ha già sfondato nelle ultime elezioni, quelle politiche e quelle regionali, ma sono solo sondaggi. 7:44 minuti e 24 secondi, ci fermiamo per la prima parte della rassegna stampa. Nella seconda cominciamo a raccontarvi le questioni economiche che riguardano il paese. In primo piano. 7:45 e 34 secondi, ad un ascoltatore non è piaciuto il mio pseudo umorismo sulla canottiera di Bossi, nessun umorismo. Ho solo visto una fotografia con Bossi in canottiera. Mi sembra di ricordare la stessa cosa in un'estate del 1994-95, ma forse ricordo male. L'allarme lanciato martedì dalla Federal Reserve sul rallentamento dell'economia americana. La frenata americana spaventa i mercati, yen record da 15 anni, scrive Sole 24 Ore. Ed è così che Wall Street perde il 2,8%, Milano addirittura il 3,2%, non va meglio, come avete sentito anche nei nostri radiogiornali, per Tokyo. E Roberto Perotti, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, scrive che nel marzo del 2009, in pieno caos nei mercati finanziari, era chiaro ciò che la Federal Reserve e il Congresso avrebbero dovuto fare: espandere la politica monetaria e la politica di bilancio. Il dibattito era sul quanto e sul come, non sul se. Oggi il lavoro di Bernanke è leggermente meno stressante di allora, quando il mondo era sull'orlo del baratro finanziario, ma più difficile. Con il senno di poi molti saranno pronti a condannare il presidente della Fed per vari peccati di azione e di omissione, ma la realtà è che non è affatto ovvio cosa si debba fare e come. Il rendimento dei titoli del Tesoro americano a 5 anni è 2,5 punti percentuali sotto il rendimento dei titoli a 30 anni, la differenza più alta degli ultimi 5 anni. Il mercato dunque si aspetta, scrive Perotti, un'economia vicina alla deflazione nel prossimo futuro, ma allo stesso tempo si aspetta che la politica monetaria estremamente espansiva genererà inflazione tra qualche anno. E i dati delle ultime settimane segnalano un raffreddamento della crescita americana, e anche dalla Gran Bretagna, dal Giappone, ieri sono arrivati segnali ciclici negativi. Trovate questa riflessione sul Sole 24 Ore. E troviamo un'altra parte che riguarda la politica estera, le storie di cronaca dalla Russia, per esempio. C'è un bel reportage che trovate sulla Stampa, ed è di Mark Franchetti, Russia dove la speranza è cenere. Voi sapete che le ultime notizie, quelle che riguardano gli incendi che sono scoppiati in Russia in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, hanno toccato circa 4.000 ettari, è notizia di ieri, che erano già stati contaminati dall'incidente nucleare di Chernobyl. Inaspettatamente, scrive Franchetti sulla Stampa, l'odore acre del fumo degli incendi boschivi che hanno afflitto la Russia mi ha aggredito appena sono salito a bordo del volo Aeroflot di ritorno a Mosca. Fuori a Milano il tempo era limpido e soleggiato, ma una volta entrato in aereo ero già in Russia. A mano che si avvicinavamo a Mosca, lo sconfinante paesaggio sottostante scompariva, avvolto da una spessa coltre di nubi, smog, fumo. Uscendo dal terminal, la pungente foschia diventava sempre più spessa. Per giorni la capitale russa è stata soffocata da una delle peggiori catastrofi ecologiche che abbia mai colpito il paese. A volte la visibilità è scesa soli 50 metri, si dice che il tasso di mortalità in città sia perfino raddoppiato. Ma quando ho chiesto a Sergei, il tassista che mi ha portato in città dall'aeroporto, come se la stava cavando nel bel mezzo di questa emergenza, che ha fatto notizie in tutto il mondo, la sua risposta è stata tipicamente russa. Normal no, ha detto. I russi, si sa, sono stoici, forti, pieni di risorse di fronte alle difficoltà, sono anche assuefatti alla tragedia, alle calamità, alla lotta, all'ingiustizia. Ad agosto poi la catastrofe se l'aspettano proprio, dato che per qualche bizzarra anomalia storica quasi ogni anno in questo mese capita qualcosa di terribile. Solo per citare qualche esempio, il colpo di Stato del 1991 contro Mikhail Gorbaciov. Restiamo sulla stampa, quindi lasciamo il reportage sulla Russia. Restiamo sulla stampa perché c'è un'intervista importante che in questa estate di polemiche politiche forse rischia un po' di sparire, ma un'intervista giornalisticamente secondo me rilevante, perché due bravissimi giornalisti che sono Paolo Mastrolilli e Francesco Lalicata hanno beccato un signore che sa molte cose, che sa molte vicende di mafia. Robert von Palas Kotel'bzensko, al secolo Vito Roberto Palazzolo, un mistero vivente, accusato di essere la mente del riciclaggio dei profitti mafiosi nell'85, era stato condannato in Svizzera a 3 anni di prigione per Pizza Connection. Uscito dal carcere si era poi trasferito in Sudafrica, dove vive ancora oggi. Da oltre 20 anni la magistratura italiana chiede senza esito la sua estradizione. Palazzolo è stato intervistato da Città del Capo dalla stampa e dice alcune cose interessanti. Dice impossibile, soprattutto sulle stragi di mafia, sulle stragi sia del 92, quella di Capaci del 23 maggio del 1992, che costò la vita a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo, agli uomini della sua scorta, e quella successiva del 19 luglio del 1992, sempre a Palermo, in via D'Amelio, che costò la vita a Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta. Impossibile che i boss abbiano organizzato tutto da soli. Chi poteva conoscere gli spostamenti di Falcone e Borsellino, rivela Vito Palazzolo. E ancora, soltanto i vertici del ROS, dei carabinieri, sanno se ci fu un tentativo di patto con le cosche, la mano dello Stato nelle stragi di mafia. Ha parlato dunque alla stampa l'uomo accusato di essere il cassiere dei clan, latitante da 20 anni. Un'altra notizia la troviamo sulla prima pagina del Sole, ce la racconta Cristian Rocca. Google Verizon non è un patto con il diavolo, molta calma, internet libero non è finito, scrive Rocca. Google non ha venduto l'anima al diavolo, continueremo a navigare a piacimento sul web, vedremo gli stessi siti di prima più tutti gli altri, non ci saranno forze oscure della reazione che fanno caricare la pagina del giornale Tizio 5 volte più velocemente di quella del giornale Caio. L'accesso sarà sempre democratico, semmai pagheremo di più o in modo diverso per servizi extra, per applicazioni particolari, per sviluppi della rete wireless non ancora conosciuti. L'accordo Google Verizon è stato rumorosamente definito il nuovo patto Molotov-Ribbentrop con noi utenti della rete della parte dei sudeti. Il vecchio campione del popolo Google avrebbe tradito alleandosi con il malvagio operatore telefonico Verizon per spartirsi i profitti, controllare la rete, manipolare le nostre coscienze. Arriverà l'internet di serie A, quello di serie B, dicono altri catastrofisti. Alla fine del mondo è vero, chissà, ma è corretto segnalare che c'è anche chi dice di no, che non è vero niente, che non ci saranno limitazioni, ma nuovi servizi, più contenuti, maggiore scelta. Questi sono i dubbi e le domande del Sole 24 Ore in prima pagina. Infine chiudo con un bell'articolo in prima pagina di Repubblica, lo scrive Carlin Petrin, che di vino sa tutto, così come sa tutto di cibo di qualità. Vendemmia d'oro, ma chi brinderà? Carlo Petrini su Repubblica. Ricorda Petrini che, come sempre accade in questo periodo, si fanno tante chiacchiere sulla qualità della vendemmia, neppure stessimo parlando di una partita di calcio. Da inizio agosto è partito il tam-tam mediatico e si sono alzate inopportune grida di giubilo per il sorpasso di produzione degli italiani sui francesi. Secondo i dati diffusi da alcune associazioni di categoria, risulta che la produzione di vino italiano potrebbe segnare un aumento fino al 5% rispetto allo scorso anno. Oltralpe invece la produzione potrebbe far registrare una crescita limitata che si assesterebbe al 47,3 milioni di ettolitri. Una vendemmia si giudica, dice Petrini, come mi insegnano i miei amici viticoltori, non solo dopo aver portato le uve in cantina, ma alcuni mesi dopo. Infatti le 3 settimane che precedono la raccolta sono decisive dal punto di vista climatico, ci ricorda Petrini. Siamo alla chiusura.